Radio 24 Reportage. Agricoltura, ritorno al futuro, di Alessandra Schepisi. Io pratico agricoltura naturale, che è un tipo di agricoltura che si basa su importantissimi principi, in primis l'autoriproduzione del seme in azienda. Ci piaceva questa idea di andare a proporre i nostri prodotti al mercato giapponese. Partendo dall'agricoltura, partendo dal prodotto della terra, degli asini in questo caso. È un progetto che nasce 2 anni fa della filiera agricola. Un'azienda multifunzionale, quindi offriamo vitto, alloggio, fattura didattica e più stiamo lavorando. Al ritorno! Mosè e il bergamotto, Maria Letizia e le erbe naturali, Matteo e la crema di spumante, Ilse e il suo agri ospizio, Federico e Raffaele il latte d'asina. Si parla poco di contadini e mai di contadini poco più che ventenni. Voglio andare a vivere in campagna. Sono 49.000 in Italia, le loro aziende fatturano oltre il 40% in più della media, hanno una superficie e un numero di occupati di oltre il 50% in più. In generale, l'occupazione nelle campagne aumenta, più 2% nel 2010, anno in cui l'industria invece crolla del 3%. L'agricoltura offrirà ai giovani 250.000 posti di lavoro nei prossimi 10 anni. È il caso di dire braccia strappate alla disoccupazione. Le imprese giovani sono più efficienti perché i giovani hanno più voglia di investire anche in periodo di crisi, sono più capaci di innovare, più inclini a interpretare le tendenze del mercato anche di quello straniero. Ed ecco che accanto alle attività tradizionali si affiancano tutta una serie di iniziative che vanno dalle fattorie didattiche agli agri ospizi, dal biologico alla realizzazione di cosmetici, alla fornitura di servizi per la pubblica amministrazione. Terra mia, terra mia. Com'è bella la puntata. Di terra si può vivere e farlo anche bene. 2000 ragazzi sono andati a Roma il 17 maggio per spiegarlo nella prima assemblea dei giovani agricoltori organizzata dalla Coldiretti. Maria Letizia Gardoni. Quanti anni hai? 22. Una giovanissima agricoltrice? Sì, per scelta e per passione, decisamente. Una ragazza di 22 anni che decide di intraprendere questo tipo di lavoro, sì. Insomma, un po' curioso, no? È un lavoro faticoso ma che ti dà tante soddisfazioni. Non provieni da una famiglia di agricoltori? No, assolutamente, i miei genitori sono entrambi impiegati pubblici e questa è una mia passione che ho fin da quando ero piccola. Ovviamente grazie all'investimento economico di mio padre ho potuto creare questa azienda a 19 anni. Io pratico agricoltura naturale, che è un tipo di agricoltura che si basa su importantissimi principi, in primis l'autoriproduzione del seme in azienda. Non utilizziamo alcun tipo di prodotto chimico, né diserbanti, né insetticidi, né concimi. Ripopoliamo l'appezzamento coltivato con siepi e alberi da frutto, comunque forestali, per permettere appunto il ripopolamento delle specie selvatiche e degli insetti pronubi, tutte cose che comunque portano a questo, alla salvaguardia della biodiversità e dell'ambiente tutto. Ilse De Matteis, 26 anni. La mia azienda è Agriturismo La Villa, è un'azienda multifunzionale, quindi offriamo vitto e alloggio, fattoria didattica e in più stiamo lavorando ad un progetto innovativo di ampliamento aziendale, ma soprattutto di un servizio particolare offerto a una categoria più svantaggiata che sono gli anziani. Fondamentalmente un po' tutte i nostri anziani, i nostri nonni hanno vissuto la vita di campagna, riscoprendo appunto nella nostra attività, nella nostra azienda i veri sapori, le vere culture, magari essendo proprio parti attive anche nel lavoro dell'azienda. Io sono Nicola Vantaggiato. La crema di olivotto è un progetto che nasce, diciamo, ispirandosi a quella che è la vicenda del cacao. Essendo che il territorio salentino conta migliaia di alberi di cellina di Nardò, un'oliva particolare chiamata appunto autoctona del posto, si è pensato perché non utilizzare un frutto amaro come quello amarognolo, come quello dell'oliva, per creare qualcosa di dolce. E si è così arrivati a creare questa crema di olivotto che sta riscontrando un bel po' di successo nell'uso in pasticceria. Io sono Citta Federico dell'azienda agricola La Piemontesina, 24 anni. E sono Raffaele Lamorte di Bianca Cosmetics, 23 anni. Voi siete giovanissimi, entrare nel mondo dell'agricoltura a questa età che cosa significa? Allora, guarda, io ti posso raccontare la nostra storia. Bianca Cosmetics nasce come figlia della Piemontesina per la distribuzione dei cosmetici a base di latte d'asina. Partendo dall'agricoltura, partendo dal prodotto della terra, degli asini in questo caso, un po' meno della terra, abbiamo fatto un prodotto cosmetico totalmente naturale, proprio al 100% e col 55% di latte d'asina. È una linea cosmetica di 7 pezzi che abbiamo presentato in Giappone a settembre-ottobre e che uscirà in commercio adesso come linea di lusso fra un po' di mesi in Italia, e in Giappone proprio in questo periodo sta iniziando la distribuzione. Noi abbiamo ripreso la tradizione dell'antica tabacchiera da fiuto, che praticamente era una tabacchiera che i nostri avi nel meridione usavano per mettere il tabacco da naso. Questa tradizione praticamente si è persa negli anni 60, in quanto il tabacco da fiuto non si trovava più. È un lavoro artigianale, siamo l'unica azienda al mondo che fa questo tipo di lavoro. Quanti anni ha? 29. A che età ha iniziato? 14 anni, diciamo, a fare questo tipo di prodotti. Aiuti da parte dello Stato, oppure si parla sempre di finanziamenti europei che le regioni del sud non utilizzano fino in fondo per avviare anche delle attività. Lei è riuscito, come dire, a ricorrere a questo tipo di agevolazioni a livello europeo? Assolutamente non abbiamo avuto nessun tipo di finanziamento. Matteo Furlani, ho 35 anni, la mia azienda è a Trento, tramandata dal bisnonno, e negli ultimi 6 mesi si è deciso che parte del prodotto vino che noi trasformiamo, dove facciamo un metodo classico, quindi uno spumante, dei vini bianchi e dei vini rossi, abbiamo deciso di iniziare a trasformare dal metodo classico in una linea cosmetica allo spumante. Quali proprietà ha lo spumante? Principalmente antiossidante, però era riuscire a dare allo spumante anche l'ultimo senso, che era quello del tatto. Avete usufruito di agevolazioni? Non abbiamo avuto nessuna agevolazione, stiamo cercando di produrre da soli. Nella vecchia fattoria, ia ia o, dove c'è lo zio Tobia, ia ia o. Tanta inventiva, ma anche coraggio nel fare l'agricoltore, perché le difficoltà non mancano, dal mancato accesso al credito all'urbanizzazione selvaggia che rende difficile procurarsi la stessa terra, dall'eccessiva burocrazia all'arretratezza culturale per cui prevale una certa politica che di fatto marginalizza l'agricoltura. Vittorio San Giorgio ha 28 anni ed è il delegato nazionale Coldiretti Giovani. Noi oggi stiamo a denunciare innanzitutto le difficoltà, e non si può parlare di libertà d'impresa e poi un giovane per aprire un'impresa agricola ci mette 2 anni e mezzo nel nostro paese. Non si può chiedere ad un giovane di essere l'innovazione, facciamo gli slogan elettorali, i giovani sono il futuro, e poi negli stati in cui dobbiamo parlare di giovani, i giovani non ne devono parlare perché loro non hanno esperienza per poter parlare di politiche. Allora, se le politiche sono per i giovani, cominciamo a parlare di giovani, per i giovani. I giovani si sono stancati di dover aspettare il sistema paese. Ah, però ci sono appunto delle sovvenzioni a livello europeo. Certo che ci sono. Non vengono utilizzate bene perché si fermano dietro le lungaggini burocratiche. 2 anni e mezzo per aprire un'impresa agricola. È un problema italiano perché le regioni ci mettono troppo. C'è una burocrazia assurdissima, una burocrazia non a misura d'impresa, è una burocrazia a misura di burocrate, il quale non gioca con il rischio d'impresa e con il tempo. Quindi scoraggia l'accesso a queste forme di aiuto. Assolutamente sì. I finanziamenti comunitari dunque ci sono, ma i tempi delle regioni incaricate di erogarli sono troppo lunghi. Facciamoci spiegare meglio. Pietro Sandali, capo area economica di Coldiretti. Effettivamente la disponibilità per finanziamenti per i giovani, per le imprese che vogliono investire o che si vogliono insediare per la prima volta, effettivamente ci sono. Sono fondi comunitari. Il problema vero è la burocrazia, che è nata in modo particolare con l'ultima riforma. Una burocrazia che nasce a Bruxelles, ma devo dire obiettivamente che anche noi in Italia complichiamo parecchio. Lo complichiamo perché questi finanziamenti vengono veicolati tramite i piani di sviluppo regionale, che purtroppo non sono coordinati e che molto spesso partono anche con momenti e tempi diversi da una regione all'altra, quindi mettendo anche, come dire, i giovani o comunque tutte le imprese in concorrenza tra di loro. C'è la necessità, e questo è il tema aperto sul tavolo comunitario, di poter avere un momento di coordinamento nazionale che semplifichi l'accesso a questi aiuti. Molto spesso si pensa a un investimento e lo si realizza dopo 10 anni, molto spesso l'investimento diventa, ancora prima di partire, vecchio. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.